Buonasera a tutti e tutte, queste sono gli 87.9 nella modulazione di frequenza, siamo su Radio Onda Rossa, la trasmissione è Entropia Massima. Vogliamo dare innanzitutto in apertura di trasmissione un grande abbraccio a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, come sempre uno speciale saluto. Ed eccoci qui per una nuova puntata dedicata al ciclo Tecnologia e Rivoluzione. Siamo mancati per un po', abbiamo avuto un avvicendamento di altre puntate, eccoci con una puntata ancora sui dati, sul datismo, l'argomento che abbiamo lasciato un mesetto fa circa. Come sapete quest'anno stiamo facendo il ciclo sull'intelligenza artificiale, quindi ogni puntata riguarda questo tema, sempre visto diciamo da un'angolatura diversa. E adesso lo stiamo vedendo un po' da un'angolatura molto conosciuta, che è quella dei dati, no? Questo fenomeno insomma in cui siamo totalmente immersi nostro malgrado, e più in generale sembra si sia creato nel mondo una filosofia o addirittura una religione. In realtà questa definizione è probabilmente errata, come ci diceva il nostro Carlo dell'ora di religione che ci ha fatto compagnia la volta scorsa, ma sicuramente possiamo parlare di una filosofia o comunque di un'ideologia, va. E il datismo, che vede l'universo intero come un enorme flusso di dati, e tutto ciò che si trova nell'universo, non solo quindi sul pianeta Terra, ha valore in base a qual è il contributo che dà all'elaborazione dei dati. Quindi letteralmente ogni cosa, vivente e non vivente, organica e inorganica, un animale, incluso Homo sapiens, dunque noi, una pianta, un sasso, qualunque cosa, elabora dei dati in questa visione. Il suo valore è dato dalla quantità di dati, o più che la quantità, diciamo alla capacità di elaborare dati. Come vedremo, la quantità non è solo l'unico parametro con cui si giudicano il valore in questa filosofia del datismo. Fondamentalmente tutto nasce dalla idea tirata fuori dagli studi sull'origine della specie di Charles Darwin, che risalgono a 150 anni fa. Si è capito che gli organismi viventi non sono altro che degli algoritmi biochimici. Il DNA è ciò che fa di noi ciò che siamo, e come sappiamo esso è nient'altro che una sequenza di informazioni che istruiscono la materia di cui siamo composti per plasmarla nel modo in cui lì c'è scritto. È una scoperta di una portata gigantesca, molto di più di quella diciamo dell'informatica che nasce centinaia di anni più tardi, quindi parliamo insomma di 50 anni più tardi, quindi parliamo dell'inizio del secolo scorso, degli anni 30-40, con Alan Turing, da cui la famosa macchina di Turing. Ecco, in quel caso gli algoritmi venivano interpretati da un elaboratore, quindi Turing ci dice esistono dei dati in ingresso, poi esiste un'elaborazione di questi dati ed esistono dei dati in uscita. Da qui, da questa idea che oggi sembra scontata, nasce l'informatica, nasce anche la telematica, tutto ciò in cui oggi siamo immersi. Il datismo in qualche modo prende queste due grandi intuizioni, DNA da una parte, macchina di Turing dall'altra, le mette insieme e ci dice le stesse leggi matematiche regolano questi due tipi di algoritmi. In realtà questi due algoritmi sono la stessa cosa, cioè l'algoritmo biochimico attraverso il quale noi diventiamo quello che siamo, quindi il DNA da un lato, e dall'altro l'algoritmo informatico, che è interpretabile da un elaboratore, quindi da un soggetto inorganico. Tutti e due sono la stessa cosa, sono interpretabili allo stesso modo. Ovviamente se questo è vero, ci si spalancano delle ipotesi, come dire, su cui riflettere, ecco, senza spaventarci, senza essere catastrofisti, né da un lato né dall'altro, cioè né utopici né distopici. Vediamo di cosa si tratta. Però Ciò che è certo è che le macchine hanno la capacità di superare gli organismi biochimici, quindi le prestazioni quantomeno di un organismo vivente, e quindi se gli algoritmi sono gli stessi, se un essere vivente altro non è che una macchina che interpreta degli algoritmi, bene, sappiamo già adesso, questo è vero, che le macchine possono superarci quando vogliono in efficienza. Cosa cambia con l'introduzione di questi concetti? Beh, innanzitutto il datismo per i politici, per gli uomini d'affari, ma anche per i consumatori, per tutti e tutte noi, si basa su una serie di tecnologie e una serie di poteri che noi possiamo tranquillamente intravedere dietro queste tecnologie. Per gli accademici che studiano questi fenomeni, per gli intellettuali, il datismo rappresenta la promessa di una teoria omnicomprensiva, che è sempre stata una delle più grandi sfide della scienza, cioè trovare una teoria che sia in grado di spiegare tutta la realtà. Musicologia, economia, biologia, quello che volete, quinta di Beethoven, una bolla speculativa, un virus dell'influenza, tutto questo altro non è che elaborazione di dati. Al momento noi siamo abituati a ragionare così: i dati rappresentano il primo passo della conoscenza. Ci sono dei dati, gli uomini distillano questi dati, li elaborano, da questa elaborazione nasce una conoscenza e da questa conoscenza nasce una saggezza. Questo è il procedimento attraverso cui si è mosso lo scienziato, ma anche l'uomo dell'età del periodo umanista che stiamo tuttora vivendo. Ora qualcosa sta cambiando, perché la quantità di dati che ci sono in circolazione sono talmente tanti che non è più possibile per un essere vivente, per un uomo, non è più possibile elaborarli. Quindi non ce n'è, non sono troppi. E allora, poiché si continuano a produrre moli di dati enormi e questi dati producono in ultima analisi ricchezza, si sta dando molta fiducia al cosiddetto fenomeno dei big data, e quindi queste enormi mole di dati possono essere efficacemente elaborate solo da macchine che vengono costruite apposta e da algoritmi che vengono sviluppati proprio per poter far macinare alle macchine queste enormi mole di dati. E dobbiamo semplicemente rinunciare all'idea che un essere umano possa controllare le informazioni presenti in questi dati, possa utilizzarla a pieno, ma neanche in parte forse. Ad ogni modo, in base a questo concetto del datismo, giraffe, pomodori, uomini, sassi sono altro che differenti metodi di elaborazione dei dati. Questo è il nuovo dogma scientifico che si sta diffondendo, sta già succedendo. E poi si può complessificare, si possono parlare anche di più elementi che costituiscono un insieme interagente, quindi alveari, foreste, colonie di batteri o città piene zeppe di uomini e di donne. Parlando da un punto di vista economico, per esempio, parliamo di economia, no? È una scienza anche l'economia, quindi se qualcuno sta provando a spiegare la storia e a spiegare anche le leggi economiche che regolano il mondo attraverso i meccanismi per elaborare i dati. Ora sappiamo che i dati vengono raccolti, i nostri dati vengono raccolti per tenere sotto controllo i nostri desideri, le nostre capacità, no? Quindi i nostri desideri e le nostre capacità sono ciò che contribuiscono alla collezione di questi dati. Ed è molto importante per chi li detiene, per i soggetti che li detengono, poter trasformare tutto questo in decisioni. Questo è il business che c'è dietro i dati, detto in pochissime parole. Quindi, conoscendo alcune cose di noi, cose che sono state conosciute mettendo alla prova i nostri desideri o le nostre capacità, è possibile prendere delle decisioni importanti. E quindi chi ha questi dati, chi è in grado di elaborarli, può vendere informazioni uniche. Ma facciamo un passo indietro, consideriamo per esempio due modelli economici classici: neoliberismo, statalismo. Facciamo proprio un ragionamento semplice, no? Basato su concetti molto semplici. Da un punto di vista datista, neoliberismo e statalismo non vengono giudicati da un punto di vista etico, né sulla base di ideologie. Sono dei sistemi di elaborazione dei dati, come tutto il resto. Quindi il neoliberismo tipicamente è un sistema di elaborazione dati distribuito, mentre lo statalismo è un sistema di elaborazione centralizzato. Questo è banale, no? Lo possiamo capire da soli. Diciamo nell'idea neoliberista ci sono produttori e consumatori, c'è uno scambio di informazioni che favorisce questa dialettica tra produttori e consumatori, e vi è una sostanziale libertà decisionale da parte di chi fa i prezzi, tanto che posso vendere anche il pane a 1000 euro al chilo, se voglio mettere questo prezzo lo posso fare, difficilmente qualcuno lo comprerà. Quindi sostanzialmente i prezzi non fanno altro che dirci cosa succede nell'incontro fra domanda e offerta, e quindi non sono altro che lo specchio di questa dialettica tra produttori e consumatori, e quindi in un sistema così distribuito il prezzo va ad essere, insomma, questo ovviamente in teoria, no? Poi ci sono molte distorsioni, ma parliamo proprio per massimi sistemi. Il prezzo altro non è che un coordinamento delle azioni delle persone. E quindi dentro ai prezzi c'è una conoscenza dei fatti che viene dispersa tra molte persone di fatto. Sembra sciocco, ma è così. Un prezzo ci dice tantissimo sulle interazioni che si sono avute tra migliaia, milioni o miliardi di persone. È così che funziona la borsa, no? Ciò che si dice in un sistema neoliberista è che l'informazione deve fluire. In pochi minuti tutto può cambiare, sappiamo che in borsa addirittura anche in pochi secondi o anche in pochi centesimi di secondo le cose cambiano, letteralmente. Ci sono stati dei casi in cui davvero per una manciata di secondi si sono bruciati miliardi, e quindi qualcuno ha effettuato delle speculazioni evidentemente, e qualcun altro ha subito. Mentre invece, se prendiamo in considerazione un modello statalista, quindi centralizzato, diciamo così, banalizzando anche in questo caso, ci sono le tasse, quindi si raccolgono dei denari, questi denari vengono accumulati in un posto e poi vengono prese delle decisioni su come spendere questi denari. Ovviamente in questo caso, nel caso centralizzato, si ha una responsabilità molto maggiore, perché se si commettono degli errori si fanno dei danni molto grandi. Sempre tagliando con l'accetta, diciamo che in un sistema statalista centralizzato, come poteva essere quello dell'Unione Sovietica, tanto per fare un esempio, diciamo, banale, lo Stato decide di cosa si ha bisogno e lo dà ai cittadini. E quindi c'è un controllo sui prezzi e sulla produzione totalmente centralizzato. Questi sono due modelli, no? Come vedete, al di là delle considerazioni che possiamo fare su questi due modelli, un datista ci direbbe semplicemente questo, che hanno due diversi modelli di elaborazione dei dati. Ad esempio nell'Unione Sovietica c'era un ricercatore di nome Lysenko che aveva fatto alcune ipotesi, che poi rivelatesi errate, sul modo in cui gli organismi si riproducono, e contrariamente a quello che diciamo aveva scoperto Darwin, e cioè che durante una vita il DNA non cambia, quindi i cambiamenti del DNA avvengono solo su un certo numero di generazioni. Lysenko invece sosteneva che se ad esempio un grano fosse vissuto in una condizione di sfavorevole, si sarebbe creato poi del grano più resistente. Questo in realtà era sbagliato, però questa decisione poi ha portato a produrre grano in Siberia pensando che lo avrebbe rinforzato e che quindi sarebbe poi stato più facile produrlo su climi più temperati, così non fu. Quindi qualcuno dice anche, rileggendo la storia sulla base di questo concetto dell'elaborazione dei dati, che l'Unione Sovietica fu sconfitta perché l'elaborazione dei dati era meno efficiente. Può darsi, è un modo di vedere le cose. Di sicuro c'è una storia che si racconta, una storia ovviamente apocrifa, come tutte le storielle sull'Unione Sovietica raccontate qui dalle nostre parti in Occidente, si racconta di un ministro dell'economia dell'URSS in visita a Londra, che era davvero molto colpito dal fatto che non ci fossero file in una città così grande per il pane, no? E quindi chiese: ma che algoritmo utilizzate per distribuire il pane ai cittadini? Noi a Mosca non riusciamo ad essere così efficienti, abbiamo continuamente delle file, eppure studiamo tantissimo, ne proviamo tantissime soluzioni, algoritmi, ci sono persone che studiano, eppure abbiamo sempre file. Invece vedo che qui tutto funziona perfettamente, e questo ovviamente tra le risate degli altri che provavano invece a spiegargli che il sistema si equilibrava da solo. Quindi vabbè, storiella che può essere tranquillamente apocrifa, però in qualche modo ci dà un po' un'idea, no, di questa ambivalenza, cioè è il mercato in un sistema non liberista a decidere qual è il prezzo, qual è il numero delle fette di cui ciascuno ha bisogno, ed è sempre il mercato a stabilire quali sono le priorità della ricerca, dello sviluppo. Ok, quindi questo è un modo di vedere l'economia attraverso il datismo, ma si può vedere anche le scienze politiche. Possono essere viste sempre come diciamo uno studio sull'elaborazione dei dati. Per esempio, parlando di potere, no? Anche qui banalizziamo sempre al massimo, senza prendere parte, diciamo, no? Per il momento. Quindi democrazia e dittature, no? Anche qui democrazia è una parola su cui si potrebbe parlare moltissimo, ma prendiamole, diciamo, per quello che sono oggi, per la distorsione che oggi se ne fa nel linguaggio, diciamo, mediatico mainstream. Sono due sistemi che competono per la raccolta e l'analisi dei dati, democrazie e dittature. Da un lato un modello centralizzato, dall'altro un modello distribuito, più o meno come avviene per l'economia. Si potrebbe dire che i sistemi democratici, fra tante virgolette, hanno prevalso nel XX secolo, e ci si può chiedere cosa succederà nel XXI, così come per esempio si potrebbe dire sempre grossolanamente: durante l'impero romano ci fu un periodo di sostanziale democrazia in cui le decisioni venivano prese in maniera, diciamo, più collegiale, e poi invece si passò a un modello in cui le decisioni le prendeva uno solo, e quindi potrebbe accadere la stessa cosa. Chi ha paura di tutto quello che sta succedendo ci pone questa domanda: potrebbe succedere lo stesso? No, tutti hanno paura di questa cosa. Quindi al crescere del volume dei dati e al crescere della velocità con cui questi dati vengono diffusi, i sistemi con cui si governano gli stati, i sistemi di potere attualmente presenti, diventano via via obsoleti. Le elezioni, i partiti, i parlamenti sono sistemi obsoleti che non riescono ad elaborare i dati abbastanza velocemente. Questo ce ne rendiamo conto, no? Non ha mai avuto senso per noi partecipare alle elezioni, ma penso che questa cosa si stia diffondendo, tanto che l'astensione è sempre in crescita, così come anche le forme di partito sono ridicole. E penso che in pochi ancora pensino che dei parlamentari siano in grado davvero di governare un paese. E perché sta succedendo questo? Sta succedendo, dicono i datisti, perché queste istituzioni non sono in grado di gestire i dati. Un tempo la politica si evolveva più in fretta della tecnologia, e quindi la politica poteva pronunciarsi sulla tecnologia, poteva dire qualcosa in merito alla tecnologia. Oggi invece sta succedendo il contrario. E sta succedendo che la tecnologia va troppo più veloce della politica, la politica quindi non ha più strumenti per normarla, e quindi perde completamente di senso. Assistiamo del resto tutti, e non da oggi, a un'enorme perdita di controllo della cosiddetta democrazia, diciamo, o comunque dei sistemi parlamentari elettorali. ci sono degli organismi oggi che hanno immensamente più potere di stati che non vengono eletti da nessuno. Questo noi lo sosteniamo già dagli anni 90, ce ne eravamo già accorti dagli anni 90, no? E l'avevamo denunciato, insomma, era anche quello che poi abbiamo portato a Genova, no? Uno dei temi più importanti, la totale perdita di controllo. Organismi quali le multinazionali, ad esempio, hanno una concentrano ricchezze e poteri in un modo totalmente incontrollato. Cioè, non che la democrazia serva a qualcosa, ma almeno, insomma, almeno formalmente c'era, invece in questi casi non c'è, nessuno ha mai votato per sapere come, ad esempio, come bisogna normare internet, no? Internet ormai sappiamo, insomma, siamo tutti assolutamente immersi in cosiddetto cyberspazio, sappiamo che questa tecnologia ha portato delle questioni, delle domande nuove, per esempio sulla sovranità. Come, perché prima c'erano gli stati, ci sono circa 150 stati nel mondo che hanno determinati confini, dentro questi confini comandano le istituzioni che ci sono, che possono essere più o meno democratiche, sempre tra virgolette. E su internet invece questa cosa viene abbattuta, i confini non sono più quelli, non si sa quali sono, non si sa quali debbano essere le sovranità all'interno della rete. Quindi è una situazione fuori controllo. Ogni tanto la politica prova a dire qualcosa, ma è totalmente spesso fanno anche ridere i provvedimenti che prendono i politici rispetto alla normazione della sovranità su internet. Sappiamo tutti che internet significa anche perdita di privacy per chi lo utilizza, e noi ne facciamo le spese, lo denunciamo anche questo da 20 anni almeno. Sappiamo anche che la nostra stessa sicurezza è in pericolo, però di fatto noi non abbiamo mai votato per internet. Ammesso che questo possa cambiare qualcosa, ripeto, ma è così, ci sono, avvengono cose completamente fuori controllo. I progettisti del web decidono cose fuori dallo spazio pubblico, non ci sono discussioni. Sì, all'inizio era così, all'inizio della nascita di internet c'erano delle discussioni che certo riguardavano comunque un ristretto numero di persone, riguardavano magari i ricercatori e pochi altri addetti ai lavori, però il progetto era quello, no? Di avere comunque sempre delle decisioni collegiali, anche perché si è sempre pensato che internet fosse un bene comune in qualche modo, no? Invece questo proposito è stato completamente tradito ultimamente, dove invece le decisioni vengono prese completamente al di fuori dello spazio, non le conosciamo neanche le decisioni che vengono prese, le subiamo, non partecipiamo, le subiamo, non le conosciamo, quindi ci ritroviamo a dover fronteggiare solo gli effetti negativi che queste decisioni hanno sulla nostra vita. Quindi c'è un'erosione totale di sovranità, un'abolizione della privacy, un buio totale su cosa significhi i confini. La politica di questo non se ne occupa perché non se ne può regolare, non se ne può occupare, non ha nessuno strumento per occuparsene. Quando la burocrazia avrà tirato fuori un po' di norme su come regolare internet sarà cambiata almeno altre 10 volte nel frattempo, e quindi quelle norme che sono state decise saranno obsolete alla decima potenza. E quindi possiamo usare questa metafora: c'è un'enorme tartaruga governativa che molto lenta, che viene completamente sopraffatta dai dati. Gli Stati Uniti non sanno come gestire i dati, spesso il governo degli Stati Uniti commette degli errori internazionali, quindi si parla proprio di errori e non di malafede, semplicemente perché in certi casi proprio non si sa cosa fare, quindi sta già accadendo. L'intelligenza artificiale, le biotecnologie potrebbero ristrutturare completamente la nostra società, la nostra economia, potrebbero, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, ristrutturare persino i nostri corpi o addirittura le nostre menti. La politica semplicemente non può entrare in questo dibattito, neanche nel dibattito, quindi figuriamoci se ha la possibilità di dire qualcosa. Non sono preparati né i politici, ma neanche gli elettori sono preparati, quindi parliamoci chiaro, insomma. Questo è il fatto. Noi tentiamo anche con queste trasmissioni magari di diffondere un po' di più alcune conoscenze, ma tutto quello che facciamo è totalmente inutile data la velocità con cui crescono le cose, quindi anche noi siamo totalmente sopraffatti da quello che succede. Lo veniamo a sapere dopo, seppure lo veniamo a sapere. E questo implica anche che, siccome manca la politica, non c'è una seria visione del mondo futuro, quindi siamo tutti un po' privi di una visione su quello che deve essere il futuro, quello che sarà il futuro. Gli elettori intuiscono che qualcosa sta succedendo, no? Quindi hanno capito che il potere non si sa dove sta andando, no? Allora qui poi nascono tutte queste... questi gruppi che parlano di potere finito in Europa piuttosto che il potere finito nell'establishment, si usano queste parole, no? Che sono parole vuote dette così. Certo, sicuramente l'Unione Europea rappresenta una concentrazione di potere, così come l'establishment è sempre stata una concentrazione di potere, che volta a escludere altri dalla possibilità di acquisire quel potere. Questo è così. Però cosa significa dire che il potere è finito lì? Dove? Lì dove? No? Si rischia di diventare dei complottisti. E poi succede che si vota per la Brexit, succede che Trump va al potere, ma questo in nessun caso porterà la situazione al punto di partenza. Siamo sempre lì, cioè questi refrain elettorali fanno emergere figure o decisioni, insomma... forse affrettate, però nessuno sa in realtà dove è andato a finire questo potere. E questo riguarda anche i regimi autoritari. Prima si diceva, no, facciamo un po' questa dialettica tra democrazia e autoritarismo, ma in realtà non c'è nessuna dialettica. Anche i regimi autoritari sono sopraffatti dalla rapidità e dall'ampiezza delle mole di dati. Un tempo c'erano, insomma, dei personaggi autoritari come Hitler o Stalin che avevano delle visioni, no? Oggi non c'è neanche questo, cioè ci sono dei personaggi come, vabbè, quelli che si sentono più spesso, Kim Jong-un peraltro recentemente è stato anche riabilitato, Ali Khamenei. Cosa ci dicono questi cosiddetti, no, cosiddetti della stampa, nuovi diciamo regimi autoritari? Ma no, parlano di bombe atomiche, di missili balistici, cioè sono fermi al 45, questi non sanno niente di dati. Dice c'è Putin, ma Putin probabilmente ha in mente un regime che assomiglia a quello zarista, ma facendo una battuta. Obama ha proposto una riforma sanitaria minuscola, assolutamente insufficiente, nonostante questo è stato criticato, quindi anche lui non ha risolto nulla. La politica è senza visioni, siamo semplicemente sopraffatti dai dati, le persone che amministrano non hanno idea di come sarà il mondo tra 20 anni. E tutto sommato forse è anche meglio così, perché se mescoliamo i poteri tecnologici con la megalomania di taluni si crea un disastro, no? Quindi forse persino meglio così. E anche questo per certi versi è anche un po' un alibi che utilizzano i politici, no? Dicono vabbè, ma io non c'ho mica bisogno di parlare di economia, tanto c'è il libero mercato, per cui è inutile occuparsene, io non ho bisogno di conoscere il mondo va da sé. E questo è un po' l'alibi, no, dei politici, l'alibi per la loro inattività o la loro ignoranza. Anzi, a volte possono anche mentire a se stessi e dire ah, ecco perché non comprendo il mondo, perché non c'è bisogno di conoscerlo. Tutto questo quindi ci porta questo vuoto di potere a sentire circolare delle fantasiose teorie del complotto. In realtà, se ben guardiamo, i miliardari attualmente in circolazione hanno degli obiettivi molto ravvicinati, vogliono guadagnare 1 miliardo in più, ma questo non è un problema, ci riescono in poco tempo, non è un obiettivo grande. Gli obiettivi delle cose di cui si dovrebbe parlare sono di risolvere la diseguaglianza globale, risolvere il riscaldamento globale. Questi sono gli obiettivi che uno si aspetterebbe da una visione politica. Questo non c'è niente, no? Quindi aspettiamo che qualcosa succeda da sé, oppure interveniamo in questo processo, non lo so, pensiamoci. Intanto ascoltiamoci un pezzo, che abbiamo parlato per un po' troppo tempo. 06 49 17 50 numero per intervenire, aspettiamo i vostri interventi. E prendiamoci un po' di carica, ascoltiamo un brano di Linea 77. Vivo guardando le stesse facce, vedendo le stesse storie, pensando, oh, quello che volevo, come